saltellano qua e là e ballano la ragazza solo perché sei bella e il resto lascialo lì. Già le tre, è un po' tardi ma di musica ce n'è e finché stai con me e stai sicura che rimango. Mi dai la carica ogni volta che mi stanco, torno da te, sarà psicologia o rimasugli di preistoria. Se quando sto con te tra gli amici sono unico, chiama la immagine, ma stasera basta coronarmi re. E tu sei splendida, buffa, resinetta, elastica, io sono pazzo di te, specialmente quando ritorni da lui. Il tuo ragazzo no, però però che simpatica che sei quando mi guardi così. E tu continua a ballare come vuoi, tutta la gente ti guarda e tu lo sai, al centro della pista tu ti metti in vista e ti piace così. La minigonna un po' corta che ci sta e le tue gambe saltellano quella e balla balla ragazza solo perché sei bella e resto lascialo lì. E tu continua a ballare come vuoi, tutta la gente ti guarda e tu lo sai, al centro della pista tu ti metti in vista e